Io non so che cosa serve troppo caffè, ma se cambio spesso l'umore c'è un perché, ride poi no. Ma non sono un isterico, sono solo uno che un po' lunatico. Una cosa che mi piace poco dopo un secco no. Se mi stai simpatico fra un attimo io ti odierò. Se mi vedi ridere a casa io da solo piangerò. Prima sotto e poi su, prima nord e poi sud. Ma se cambio spesso opinione c'è un perché piango e poi no. Ma non sono un maniaco, sono solo uno che un po' lunatico. Cosa che mi piace poco dopo un secondo. Se mi stai simpatico fra un attimo io ti odierò. Se mi devi ridere a casa io da solo piangerò. Prima rock e poi blues, prima pop e poi dance. Ma se cambio spesso canzone c'è un perché, scherzo e poi no. Ma non sono un pericolo, sono solo uno che un po' lunatico. Una cosa che mi piace poco dopo un secondo. Se mi stai simpatico fra un attimo io ti odierò. Se mi vedi ridere a casa io da solo piangerò. Prima carne poi pesce, prima culo poi vitti. Ma se cambio spesso espressione c'è un perché, spiego poi no. Ma non sono un filosofo, sono solo uno che un po' lunatico. Una cosa che mi piace poco dopo un secondo. Se mi stai simpatico fra un attimo io ti odierò. Se mi vedi ridere qua a casa io da solo piangerò.